Falco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. La vita tra i ghiacci è qualcosa che mette a dura prova corpo e mente, ma che può affascinare e stregare al punto da fare trasferire un uomo da Bolzano alla Groenlandia. È successo alla persona di cui una nostra ascoltatrice ci chiede di parlare. Sentiamo l'ascoltatrice. Ciao, sono Rosaria Giannini, sono di Lodi e ho 38 anni. Sono un'impiegata con il pallino dei viaggi. Ti ho scritto perché mi piacerebbe sapere qualcosa di più sulla storia di Robert Peroni. So che è italiano e da anni vive in Groenlandia per aiutare il popolo Inuit. E noi accontentiamo volentieri Rosaria, anche perché la vita di Robert Peroni, originario di Bolzano, è veramente incredibile. Ha lasciato gli studi di medicina dopo il primo anno, è diventato guida alpina e esploratore fino a che quasi 30 anni fa ha deciso di spostarsi in Groenlandia, dove ancora oggi presta il suo aiuto agli Inuit, che è una comunità di meno di 60.000 persone che si sta estinguendo tra l'indifferenza generale. Robert Peroni nasce nel 1944 sull'altipiano del Renon in Alto Adige. I suoi genitori sono gente di città, sono sfollati da Bolzano per sfuggire ai bombardamenti. All'epoca non c'è ancora una strada che collega Renon al capoluogo. Ci si arriva solo con una cremagliera che lentamente si arrampica sulle montagne. È un lungo viaggio di almeno un'ora e mezzo, quindi i bambini restano quasi sempre su con la mamma, senza mai scendere in città. Robert non ricorda di essere andato a Bolzano più di una volta all'anno, perché la città era troppo lontana. E con loro c'erano dei contadini che vivevano coltivando la terra, andando a caccia, facendo la legna per scaldarsi. A guerra finita, i genitori di Robert decidono che Renon era un buon posto per lui. Questa infanzia all'aria aperta, in contatto con la natura, ha lasciato il segno nella vita di quel ragazzino, che è cresciuto sotto al sole. Poi Robert compie 6 anni e tutto cambia. La famiglia si trasferisce in città e lui comincia a vivere la vita reale, quella fatta di studi, di carriera. Però soffre molto a stare in città, perché è lontano dalla natura. D'estate i suoi genitori riportano lui e il fratello al vecchio maso vicino alla stalla, e Robert capisce che la sua vita vera non è quella della città, ma è quella vissuta sui monti. Nella sua biografia, che si chiama Dove il vento grida più forte, edita da Sperling e Kuffer, Robert racconta che quando era ragazzino soffriva di mal di casa, cioè un mal di natura. Non si arrendeva, non riusciva a rinunciare alla aperta e all'ambiente selvaggio. Intorno ai 12-13 anni, mio fratello ed io abbiamo cominciato a scappare da soli in montagna. Prima con gli sci, poi con l'equipaggiamento da roccia, e a 16 anni abbiamo fatto le prime gite alpinistiche. Abbiamo imparato quasi da soli e ci siamo esercitati insieme. Poi lui, maggiore di alcuni anni, ha preferito fermarsi a un livello amatoriale, mentre io sono andato dritto verso il professionismo, al limite dell'ossessione per il rischio. Dipendevo da quei momenti, brevissimi istanti in cui sentivo che se non avessi fatto la curva o fossi scivolato, non sarei potuto tornare a casa per raccontarlo. Non pensavo mai alla morte. Ero certissimo che avrei sempre avuto la meglio. In tutto quello che facevo ero estremo. Non accettavo le convenzioni della società, nemmeno nel mangiare. nel ridere, nel pensare. Non che contestassi, ero troppo solitario per perdere tempo a litigare. Semplicemente mettevo in dubbio i confini prestabiliti e li ridefinivo da me. Per Robert a 16 anni iniziano le avventure estreme. Lui è il più piccolo del gruppo di alpinisti di cui fa anche parte il marito di sua sorella. Invece di divertirsi con gli amici della sua età, porta picozze e corde per tutti. Capisce fin da subito che non solo gli piace la montagna, ma gli piacciono le missioni difficili. Quindi inizia a scendere da canaloni ghiacciati e a esplorare pareti sconosciute. Sulle cime mi sentivo a mio agio e in pace con il mondo. Volevo sempre vedere oltre l'orizzonte, scoprire un pezzo in più. Se c'era una vetta, ci salivo perché da lì ne avrei vista un'altra e poi un'altra ancora. Forse mi piaceva anche la sensazione di sentirmi un eroe. Non un eroe per gli altri, ma dentro di me. Non cercavo un pubblico, non facevo foto e neppure raccontavo le mie imprese. Bastava che lo sapessi io. La vita di Robert prende la via della montagna. Lui ha poco più di 20 anni quando è già pazzo per gli sci. Arrampica pareti, pensa come riuscire a scendere da qualsiasi vetta sciando senza spaccarsi l'osso del collo. Piano piano questa passione diventa un lavoro vero e proprio. Comincia a partecipare a numerose spedizioni dall'Himalaya al Sud America e negli anni scopre posti nuovi, testa nuovi materiali. Con il passare del tempo però si trova schiacciato da meccanismi sempre più legati agli sponsor. Le ultime spedizioni gli lasciano l'amaro in bocca. In effetti ormai molti degli esploratori sono degli uomini immagine, più preoccupati forse di procurarsi denaro dagli sponsor che non spinti dalla loro, come dire, voglia pura di stare a contatto con la natura. Questo a Robert va un po' stretto. In un momento in cui lui è ancora drogato di adrenalina, gli succede qualcosa che gli cambia la vita, un punto di svolta. Gli propongono una spedizione in Groenlandia. È in un momento della vita in cui lui si chiede se è giunta l'ora di fermarsi e di fare una vita normale, perché intanto si è sposato, ha una figlia e quel mondo non gli piace più tantissimo. Però l'incontro coi ghiacci lo lascia senza respiro. Da quel momento nasce un rapporto straordinario. Ma era un puro caso. Nel 1980 ho guidato una spedizione internazionale in Groenlandia e lì è proprio successo un grande amore. Ho trovato presto degli amici e ho visto una natura straordinaria, ma ben presto, nel 81, sono ritornato e ho capito che è successo qualcosa con me. E allora sono pian pianino entrato più in fondo e sono rimasto lì. In meno di 2 anni Robert Peroni viene stregato dalla Groenlandia orientale. La moglie e la figlia non riescono a seguirlo. Lui capisce che non è fatto per una vita normale, perché va e viene da quelle lande desolate e fredde. È sempre più attratto dal silenzio dei ghiacci, da quel popolo che vive seguendo solo i suoi bisogni fondamentali e da quel rapporto così forte con la natura che gli ricorda tanto gli anni dell'infanzia. La Groenlandia lascia in lui un segno indelebile. Pensate che stiamo parlando dell'altipiano più grande del mondo. La Groenlandia è grande 5 volte l'Italia, eppure l'85% degli oltre 2 milioni di chilometri quadrati è coperto da un immenso ghiacciaio, spesso fino a 3 chilometri. In tutto questo spazio vivono solo 56.000 abitanti, sparsi soprattutto a sud, sulla costa sud-occidentale. 7.000 sono danesi, gli altri sono tutti Inuit. 3.500 Inuit sono a est, dove si trasferisce anche lui. È l'unico occidentale tra tutti gli abitanti con gli occhi a mandorla. Sono loro i discendenti del popolo di cacciatori e di pescatori che 5.000 anni fa attraversò lo stretto di Bering, gli Inuit. Noi li chiamiamo Inuit, però noi sulla costa orientale li chiamiamo Ivi, e un uomo vuol dire I. Però sono mongoli polari ed è un popolo straordinario. Il Falco e il Gabbiano torna tra poco, qui, su Radio 24. Lui è Mario, un idraulico. Io lo accompagno sempre da ogni cliente. Lui si occupa delle riparazioni e io dei pagamenti. Carta di credito? Bancomat? Con me ognuno paga come preferisce. Così eliminiamo le perdite d'acqua e le perdite di tempo. Chi sono? Il POS sicuro di Vodafone e Setefi. Metti la tecnologia Vodafone al servizio della tua attività. Se hai la partita IVA, scegli la soluzione per potenziare il tuo lavoro e diventare un ready business. Vai su readybusiness.vodafone.it. Messaggio pubblicitario, concessione POS soggetta all'approvazione di Setefi. Fogli informativi su monetaonline.it. Pantera millesimato, l'IRP di Infracom Italia per le aziende vitivinicole, sempre col TH. Vi presenta Strade in diretta. Buon pomeriggio, segnaliamo rallentamenti sulla 4 Milano-Brescia dopo un incidente che ora si è risolto tra Brescia Ovest e Rovato in direzione Milano. Sempre sulla 4 ma nel tratto Torino-Milano si incontra coda per lavori tra Novaresse e Marcallo Mesero in direzione Milano. Code anche sulla 14 Adriatica ma per un veicolo in panne tra Montemarciano e Senigallia in direzione di Bologna. Per quanto riguarda le condizioni meteo segnaliamo al momento i primi temporali nel Cagliaritano in Sardegna, deboli piogge anche in Sicilia che tenderanno a intensificarsi nel corso delle prossime ore. Infine a chi si sposta in treno segnaliamo disagi sulla linea Napoli-Salerno per un intervento tecnico al bivio di Santa Lucia. È tutto, il prossimo aggiornamento tra un'ora. Il Falco del Gabbiano. Riprendiamo a parlare di Robert Peroni, un personaggio che ci ha chiesto una nostra ascoltatrice, Rosaria. Robert Peroni è un altoatesino, è originario di Bolzano e a 40 anni ha deciso di lasciare per sempre l'Italia per andare a vivere in mezzo alla Groenlandia con un popolo dimenticato, quello degli Inuit, anzi degli Inuit, come dice lui. Ora la sua missione è quella di aiutare a sopravvivere le nuove generazioni del popolo del ghiaccio. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed of a neon light that split the night and touched the sound of silence. Pensate, la Groenlandia è ricoperta per più dell'80% dalla calotta di ghiaccio e dal 1979 beneficia di uno statuto di autonomia interna. Il 21 giugno del 2009 è entrato in vigore il nuovo regime autonomo. Questa data segna il 300° anniversario dell'inizio della colonizzazione danese e l'anno zero della nascita di una nuova nazione Inuit indipendente. Durante le sue visite in Groenlandia, Robert Peroni si rende ben presto conto dei drammatici problemi degli Inuit, portati all'attenzione del grande pubblico qualche anno fa da un libro bestseller di Peter Hoeg, Il senso di Smilla per la neve, che è diventato poi anche un film. Quando mio padre mi portò qui, dalla Groenlandia, io non volevo dormire in casa. Non potevo tollerare il calore. Ero abituata alla neve, all'aria. Mi feci una tenda in giardino. Povero Moritz, era così imbarazzato. Tuttora la mia idea dell'inferno è essere rinchiusa. Dov'era tua madre? Un mattino se ne andò a caccia. Trovarono il suo kayak dopo qualche giorno, con la fiancata sfondata. Chi cade in mare in Groenlandia non riaffiora mai più. L'acqua è sotto i 39 gradi Fahrenheit e a quella temperatura il processo di decomposizione si interrompe. Quanti anni avevi? 6. E allora venisti qui? Fu allora che mio padre mi portò qui. Ma non sei mai stata felice qui? L'unica cosa che mi dà vera felicità è la matematica. La neve, il ghiaccio e i numeri. Robert si ritrova da solo, l'unico occidentale in mezzo agli Inuit. Tutti sono gentili con lui, ma avverte comunque un po' di diffidenza. Non erano abituati a uomini dalla pelle bianca che si fermavano a lungo. Chi arrivava lo faceva per starci pochi giorni, e così per andare a curiosare, mentre lui sembrava essersi fermato per tanto tempo, tanto che inizia anche a imparare la loro lingua e a ascoltare i loro canti. E impara a conoscerli da vicino. Robert T. cominciarono a chiamarmi dopo un po'. Bastava che pronunciassi una frase nella loro lingua e si mostravano riconoscenti. Ai loro occhi dovevo apparire strano. Non capivano che cosa ci facessi lì e io ero il primo a non saperlo. E poi non li giudicavo, né li facevo sentire in imbarazzo. Fino ad allora, da fuori erano arrivati solo problemi. I normanni li avevano odiati, i missionari li avevano obbligati a convertirsi e in generale l'uomo bianco che si era avventurato fino a quelle terre così remote li aveva considerati, nel migliore dei casi, un male necessario. Da parte mia, vedevo le cose in modo completamente diverso. Questo popolo che non giudicava mi piaceva, e mi piaceva il fatto che nelle discussioni nessuno cercasse di prevalere. Ma in generale gli Inuit come vedono l'uomo bianco? Loro vedono l'uomo bianco come molto molto superiore, però globalmente lo vedono come usurpatore. L'uomo bianco ha sempre deciso quello che dovrebbero e devono fare loro. Lui ha sempre non solo ragione, ma vuole anche cambiare il loro modo di pensare, di vivere, e questo per loro è difficilissimo, non è accettabile. Se noi abbiamo una riunione qui in casa con i cacciatori, e allora, non so, parliamo di prezzi della prossima stagione, e le prime volte sono rimasto malissimo perché io ho fatto un progetto, ho parlato e tutti erano d'accordo, pensavo. Poi si è alzato un altro e ha detto il contrario. E poi si è alzato il terzo e dice un'altra cosa completamente diversa. Ma dico, guarda, io penso il contrario di te. Sì, sì, dice, tu hai ragione, per te. Io non voglio dire niente se è giusto o male quello che pensi tu. Io la penso così. Per loro l'uomo bianco ha torto, assolutamente torto, perché vuole sempre usare la forza. Beh, non posso biasimarli fino in fondo. È un rapporto strano quello tra l'uomo bianco e gli Inuit, anche perché la Danimarca, di cui ricordiamo la Groenlandia forma il 98% del territorio, è comunque troppo lontana. Loro sono da sempre abbandonati a se stessi. Robert racconta che il primo inverno artico passato con loro al buio a 40 gradi sotto zero ha capito che doveva fare qualcosa per loro. Ha deciso di dar vita alla fondazione Progetto La Casa Rossa, che è un centro di assistenza per giovani Inuit sbandati, perché molti sono dipendenti da droga e da alcol, elementi arrivati con l'arrivo dell'uomo bianco. È il 1992, siamo a Tasiilaq, sull'isola di Agmasalik, il centro principale della Groenlandia orientale, e qui Peroni ha un rapporto molto particolare con la natura e con le sue sfide. Il rapporto è intimo ancora oggi, però bisogna scindere anche lì, perché sulla costa occidentale ormai è molto americanizzato, più elegante, ci sono grandi alberghi, c'è qualche autobus, però sulla costa orientale, dove vivo io, ci sono comunità piccolissime, lì si vive proprio di caccia, non per fare lo sport, ma per sopravvivere. E la caccia per sopravvivere è tutto un altro fenomeno. Noi non lo conosciamo in Italia o in Europa, perché qui la caccia è un altro fenomeno. Però lassù vuol dire sentire la natura, scegliere la natura. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando di un uomo veramente particolare, Robert Peroni, è un altoatesino che vive tra i ghiacci della Groenlandia, dove per gran parte dell'anno è completamente isolato dal resto del mondo. Vive a Tasiilaq, i ghiacciai lo dividono dal sud del paese, l'unico modo per raggiungerlo è via mare. Lo abbiamo scoperto grazie a una di voi, a un'ascoltatrice, a Rosaria Giannini. Perché ti chiedo di parlarmi di Robert Peroni? L'ho scoperto da poco, cioè quando ho iniziato ad avere il sogno di andare in Groenlandia. Nelle mie ricerche mi è uscito il suo nome, che lui organizza un turismo ecosostenibile tra gli Inuit. In realtà non sapevo nulla di lui, fino a quando, ormai più di 10 anni fa, non ho letto un libro bellissimo, una specie di giallo ambientato in Danimarca. Il libro si chiama Il senso di Smilla per la neve e la protagonista era figlia di un Inuit della Groenlandia. Non so perché, ma da quel momento ho la passione per gli Inuit. E noi, per accontentare Rosaria, abbiamo intervistato lo stesso Robert e dal nostro archivio abbiamo trovato un intervento di Gabriella Massa, che è una archeologa italo-canadese che avevamo incontrato già in occasione di una mostra dedicata agli Inuit e ai popoli del ghiaccio a Torino nel 2006. Gli Inuit credevano che ogni oggetto, ogni creatura, vivente o no, avesse un'anima, quindi anche una pietra aveva la sua anima personale e loro normalmente non scolpiscono, ma tirano fuori dalla pietra l'anima che lei ha e quindi diventa l'oggetto che poi noi vediamo come risultato. I loro valori base di ieri e di oggi sono gli stessi. Questo è un popolo meraviglioso che io ammiro tantissimo perché ha questa capacità di vivere in un ambiente difficilissimo, estremo, conservando la gioia di vivere, conservando il modo di interrelazionarsi con gli altri in modo semplice, molto riservato, però avendo all'interno in se stessi una forza enorme. Beh, la vita scelta da Robert Peroni è molto particolare. Sono in tanti a chiedergli come fai. È un modo gentile per dargli un po' del matto. Una volta, scrive nel suo libro autobiografico, gli hanno fatto notare che la sua vita ricorda in versione groenlandese quella del protagonista di Shining, il film di Stanley Kubrick, in cui un uomo e la sua famiglia vivono per mesi isolati dal resto del mondo, con anche, insomma, le conseguenze che sappiamo. Lui non vive nel terrore, però una punta di follia c'è anche nel suo DNA. E se parliamo di stranezze, ci sono anche quelle del popolo Inuit. Una per tutte, questo popolo non conosce il concetto di guerra. È vero. È un popolo completamente pacifico. Abbiamo la storia che si ricorda ormai da 4.000 anni e non è mai stata fatta una guerra, non è mai combattuto una battaglia. Non è mai stato un eccidio di massa come l'abbiamo noi dall'uomo bianco, mai. È un popolo che conosce una grande stima verso tutti gli altri. Cioè se io dico qualche cosa, allora mi ascoltano e non dicono mai qualche cosa di contrario. Poi dicono il loro. Uno dice, guarda, io la penso così. E ogni tanto è difficile anche perché cerchiamo una via di mezzo, di incontrarci a metà strada. Per loro non esiste. Non c'è una via di mezzo. Loro accettano il mio e io devo accettare il loro. Quindi niente progetti di democrazia da esportare, niente Yankee, niente industrie d'armi. Ma allora quando vedono noi bianchi e le nostre guerre, cosa dicono? Loro dicono che siamo tutti matti, che siamo gente stranissima. E loro dicono, senza arroganza, per modo di dire, senza arroganza, che noi non siamo uomini, perché Inuit vuol dire uomini e per loro siamo solo bianchi. Loro dicono che siamo diversi e che noi dobbiamo uccidere, noi siamo bestiali. Loro guardano naturalmente anche la televisione e vedono degli eccidi in Iraq, al Kosovo, in tutto il mondo, dove si uccidono delle cose per loro impensabili, incredibili. Guardano con la bocca aperta, piangono e non sono disturbati nella loro vita, non sanno cosa dire, sono senza parole e senza fiato ogni tanto. Vengono a casa mia e dicono, guarda Robert, ho visto delle cose, non è da credere, ma perché? Cosa fate? Ah, quindi vogliamo dire che per iniziare a ragionare bisogna scendere sotto i 40 gradi per iniziare a pensare come dovrebbero pensare tutti gli uomini. Certo, questo è un popolo che comunque sta vivendo un periodo di trasformazione molto complesso con l'avvento dell'uomo bianco. Bisogna sapere che ci sono ancora degli uomini e delle donne che hanno vissuto l'età della pietra. Il mio vicino di casa, Kunusai per esempio, ha 64 anni ed è vissuto per 5 anni nell'età della pietra, non ha mai visto un tessuto niente e adesso gioca col DVD. Perciò vuol dire che c'è un travaglio enorme, ci sono dei problemi enormi, naturalmente. C'è la bellezza storica, però c'è anche il problema. E adesso purtroppo è stato importato l'alcol, anche un po' di droga, pochissima, però c'è anche quella lì, poi il fumo e naturalmente la televisione. E adesso ci sono dei problemi enormi. Beh, deve essere incredibile per una persona fare salti di migliaia di anni e passare dall'assenza del fuoco a guardare un film in DVD. Per lui non è uno stupore. Lui va dentro nell'elicottero come fosse una cosa normale. Lui lo accetta. È una cosa stranissima. Lui guarda la televisione, non vede la storia della televisione, non guarda un filmato, ma come un bambino piccolo di 2 o 3 anni guarda l'immagine. E per lui è una cosa normale. Lui conosce l'uomo bianco, almeno crede di conoscerlo, si stupisce più dell'uomo bianco di ogni giorno che della dia del DVD o di un'altra cosa che per noi stupisce ancora. E Robert Peroni è l'unico italiano che ha deciso di rimanere in Groenlandia per aiutare gli Inuit. Ma come aiutarli? Io ho studiato un po' di psicologia, ma mi aiuta ben poco. Bisogna stare lì, avere il cuore aperto ed ascoltarli e seguire loro attentamente. Il tempo vuol dire molto più di tanti soldi, vuol dire un cuore aperto, vuol dire una stima dell'uomo. Noi abbiamo la nostra visione del mondo e loro hanno la loro visione e bisogna stimarla. Io credo che sia tutto quello che posso fare. Oggi Robert Peroni vive in una casa calda, moderna, di legno, eppure in inverno il termometro arriva a 40 gradi sotto zero, con il vento che soffia a 120 km orari. Può capitare tranquillamente di rimanere senza acqua per settimane intere. Qui da anni convive con gli Inuit e ormai li conosce molto bene. Per esempio sa che una delle loro regole è quella di non aiutarsi troppo per non viziare l'altro, perché bisogna sempre rimanere allenati alla vita e alla sopravvivenza. Natura, caccia, sopravvivenza e il mangiare di ogni giorno. Loro per esempio non hanno una parola per il futuro. Il futuro non lo conoscono, non lo vogliono neanche sapere. Hanno solo una parola che dice l'anno prossimo e poi basta. Domani e dopodomani, nient'altro. Perciò vivono proprio la giornata. Sono proprio cacciatori, loro vanno fuori, cacciano quello che serve per una settimana, poi basta. Loro non cacciano per il futuro, non fanno scorte, non fanno niente. E questo vuole dire che loro non pensano al futuro, o forse adesso incominciano a pensare qualche cosa nel futuro, perché vedono l'uomo bianco che fa delle scorte incredibili per loro. Allora incominciano un po' a vedere e avere anche paura di un certo futuro strano, vago per loro. Beh, il futuro è un'ipotesi, disse qualcuno. Abbiamo scoperto che gli Inuit non conoscono la parola futuro e neanche la parola guerra. D'altra parte queste popolazioni sono sempre state nomadi, libere di muoversi per la banchisa senza avere necessità di conquistare un territorio. A loro bastava trarre dalla natura quel poco che serviva loro per vivere. Quindi è chiaro che per loro era assurdo uccidersi per un non nulla. Avevano talmente tante difficoltà per sopravvivere che le famiglie si rispettavano le une con le altre, solidarizzavano e non aveva alcun senso ammazzarsi per appropriarsi di cosa? Di un pezzo di ghiaccio. Ancora una scena del film Il senso di Smilla per la neve. Se due Inuit in lotta vogliono riconciliarsi, toccano l'uno il petto dell'altro dicendo Ilaka, Ilaka. Dire amico. Ilaka. E se tra le tante parole che non ci sono non esiste la parola guerra, invece per la parola neve gli Inuit di Groenlandia e di Canada hanno oltre 40 diversi termini. Presumibilmente ce ne sono anche di più di 40 modi per dire neve, perché la neve si dice aput, la neve quella bella, semplice. Poi ci sono vari modi, perché ovviamente fanno delle associazioni di parole, tipo la neve che viene dal nord e che è ghiacciata, oppure la neve che è umida e che si deposita facendo uno strato d'acqua, oppure la neve inquinata ha un nome anche, oppure la neve buona da bere. Allora ci possono essere 10.000 modi di chiamare la neve in funzione del suo utilizzo. Un'altra bella parola che a me piace moltissimo è anuri, che è il vento, e anche per il vento ci sono vari modi di chiamarlo in funzione della particolarità di questo vento. Questo è uno stralcio di intervista a Gabriella Massa che avevamo in archivio. Lei era un'archeologa con un'enorme passione per gli Inuit. Proprio l'amore per gli Inuit ha fatto rimanere Robert in Groenlandia, gli ha fatto creare la Casa Rossa, un punto di riferimento per molti sbandati, ma anche un punto di partenza per un progetto su larga scala di turismo nella zona orientale. Un turismo ecosostenibile, naturalmente, per far vivere ai turisti il mondo dei ghiacci senza sconvolgere la vita di chi ci abita, e che forse può far conoscere la parola futuro, che bisogna pur saper declinare la parola anche a chi da sempre non si muove da lassù. Nel cuore di Robert Peroni rimane un pizzico di amarezza e un po' di sconforto di fronte alla possibilità sempre più concreta che la popolazione Inuit sia destinata a estinguersi. Non c'è traccia per loro, non hanno lasciato niente, moriranno e non lasceranno niente, non c'è tradizione, non c'è niente. E possiamo solo sperare che ci siano dei giovani e incomincia qualche giovane a seguire delle tracce per cercare una via nel futuro. Ma sono ancora pochissimi e ancora molto molto sensibile, ma altre tracce non lasceranno. Ci sono storie che spesso sono sconosciute, storie di persone che hanno lasciato un segno, storie di chi è risalito e di chi ha tentato quantomeno. Ciascuno di noi nella sua vita può rischiare di cadere, però può anche dare un colpo d'ala, come il falco e come il gabbiano. Se volete mandarci commenti o segnalarci altre vite su cui puntare il microfono, scrivete a ilfalcoelgabbiano@radio24.it. Ciao, a domani. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Del Rosso.